Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Si fa sempre più strada il pensiero che naturale, ecologico, sostenibile sia la scelta giusta per imprese e consumatori. E quindi domanda e offerta di questi prodotti anche nell'arredo e nel design vedono aumentare e consolidare mercati e fatturati, quindi guadagnare, soprattutto in tempo di crisi, quando tutti siamo costretti a fare delle scelte, ma questa volta consapevoli. Senza dimenticare però la qualità, un lusso accessibile e sostenibile. Bene, oggi Voci di piccola impresa porta due esempi da ascoltare. Vale mille astuzie, anzi vale un mercato finalmente responsabile. La prima startup si chiama Eco Epoch, produce oggetti di design e complementi d'arredo. Sono tre le cose rilevanti nella storia di questa azienda neonata. La prima è che Invitalia SPA, un'agenzia del governo che investe in nuove idee di business promosse da giovani investitori, un acceleratore d'impresa, ha investito 1 milione di euro in Eco Epoch, quindi un'Italia che funziona, che aiuta i giovani. Seconda cosa, grazie a questi soldi l'azienda ha potuto costruire un sito produttivo vicino a Sant'Agata de' Goti in provincia di Benevento. In un periodo in cui le aziende stanno chiudendo nel sud Italia, loro hanno voluto scommettere su questo. I territori. Terza caratteristica, realizzano prodotti di design e complementi d'arredo usando materiali derivanti da processi di riciclo, quindi ecosostenibili, e vedremo quali. Pietro Sant'Agata, amministratore delegato di Eco Epoch ed esperto di tecnologie di taglio e stampa digitali, ci svela tutta la storia. Stiamo parlando della fine dell'anno 2009, periodo in cui ero direttore generale di un gruppo di aziende di stampa digitale e di allestimenti. All'epoca servivamo dei grandi clienti internazionali e questi clienti appunto iniziarono a sviluppare la necessità di avere delle personalizzazioni e delle aree un po' differenti rispetto al normale mood di comunicazione che tutte le aziende operavano in quel settore all'epoca. Di lì fummo investiti da parte di queste aziende nel cercare di valutare delle soluzioni alternative e con il coinvolgimento dei designer e dei creativi che all'epoca lavoravano per noi iniziamo a capire i limiti delle attuali macchine di stampa e taglio digitali e ad affrontare appunto questi limiti per spingere questi macchinari ad effettuare delle lavorazioni che fino a quel momento non erano possibili. Ecco, c'era un grande studio da fare. Quando avete fatto il vostro studio e avete pensato a che cosa fare, chi vi ha aiutato a fare il salto? Dal punto di vista della progettazione e dell'idea, dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, diciamo che è stato tutto farina del nostro sacco. Una volta capito che c'era l'opportunità di sviluppare questa idea, mi sono rivolto al mio attuale socio Massimo Bello, che è amico di vecchia data e manager internazionale, che aveva delle competenze molto forti e in determinati ambiti che erano molto complementari ai miei. Gli ho proposto appunto questa idea e lui è stato subito colpito non solo dalla fattibilità dell'idea, ma anche dell'innovazione della stessa. Fatto ciò, ovviamente dovevamo affrontare il problema numero due, come fare un'attività industriale vera e propria, quindi con necessità di ingenti investimenti di capitali. I soldi, ovviamente l'annoso problema dei soldi, cioè sapendo le tecnologie di taglio e stampa digitali, come investire? Sì, in effetti Invitalia ha giocato un ruolo molto importante per noi in questo sviluppo, in questa startup. Invitalia è stata da sempre, da subito, molto attenta a questo progetto. Abbiamo fatto un contratto con loro, per cui loro adesso sono dei nostri incubatori che a noi piace considerare come soci. Ecco, veniamo adesso però ai prodotti, cioè i complementi d'arredo, l'interior design. Esatto. È importante anche il luogo in cui avete deciso di produrli, che è al sud. Sì. Sia io che il mio socio siamo di Caserta. Abbiamo deciso di stanziare la nostra azienda a Benevento, in un piccolo paesino molto molto carino, immerso nel verde, nell'area beneventana, poiché è una zona molto tranquilla, molto serena, dove si lavora in un modo molto pacifico e a differenza di tanti imprenditori che scappano dalle nostre terre, noi abbiamo deciso di puntare appunto su di essa e per ora la scelta può rivelarsi vincente. Questo è un mercato molto particolare, dove il made in Italy è soprattutto artigianale, misto artigianale, viene molto più apprezzato all'estero piuttosto che in Italia, e abbiamo deciso di puntare inizialmente ovviamente sull'estero. L'importanza è, qui arriviamo al terzo fattore, è il materiale riciclato, riciclabile. Assolutamente sì, il concetto eco per noi significa, non è soltanto un concetto social, ma è un vero e proprio modo di vivere sia la produzione, quindi al nostro interno, e sia di vivere gli ambienti e le case, gli alberghi e tutti i luoghi dove ci si ristora e dove ci si può vivere. Eco per noi ha due concetti: o utilizzare prevalentemente materiali ecosostenibili, quindi provenienti da riciclo o riciclabili, completamente riciclabili, oppure produzioni con zero sfridi. Questo significa ovviamente un minore impatto sull'ambiente, un'ottimizzazione dei cicli produttivi e anche ovviamente un risparmio sulla produzione dei prodotti, che ovviamente si riverbera sul costo che il cliente finale va a sostenere. Purtroppo il concetto di materiali eco è un po' sminuito, cioè la sensazione che un materiale eco, riciclabile o riciclato sia un materiale povero o un materiale di scarsa qualità o di scarso effetto visivo. Nulla di più falso. Abbiamo operato insieme a diversi produttori italiani e internazionali per lo sviluppo appunto di materiali molto molto molto belli e provenienti da ricicli di materiali impensabili, come la salsa delle olive, come i vasetti di yogurt, una particolare lega di alluminio completamente riciclato che viene prodotta ad hoc per noi, questo alluminio completamente riciclato che alla vista è davvero molto molto molto bello. E quindi la killer application è proprio questa: rinvigorire il concetto di eco in una logica lusso e utilizzare delle tecnologie che fino all'altro ieri erano sviluppate per fare un determinato tipo di lavoro molto, diciamo così, standardizzato, per denotare prodotti di una forma, colori e creatività estremamente diversi da quello che è presente oggigiorno sul mercato. La seconda startup è Trentino Wood & Design. Nasce nel settembre del 2013, nel cuore delle Alpi Trentine. Affonda le sue radici in un territorio che è caratterizzato da foreste di larici, dove questi alberi unici per qualità e caratteristiche vengono scelti con cura e lavorati da artigiani. Attraverso un'arte che in Trentino si tramanda da secoli, vengono trasformati in mobili di qualità. Tradizione amalgamata con design moderno nordico e si punta al mercato internazionale. Tutta la filiera produttiva è in Trentino a chilometro zero, dove sono nati i fondatori del brand. Emanuele Patton, un designer italiano che vive e lavora a Copenaghen, e un giovane imprenditore trentino, Giuseppe Putignani, che ora ci racconta com'è andata. Ho incontrato il mio amico d'infanzia Emanuele Patton, designer adesso a Copenaghen, e chiacchierando di voglia di fare qualcosa di particolare, di innovativo ma tradizionale allo stesso tempo, di territoriale. Noi siamo entrambi trentini, anche se lui ha scelto di vivere nel nord Europa e io mi trovo spesso in giro per il mondo. È nata un po' così, in una chiacchierata con una birra fresca davanti, e pochi mesi dopo ci siamo trovati in produzione. Quindi in realtà appunto un territorio protagonista, il Trentino, un designer, un artista. Ma questa impresa è nata con quale idea? Ma l'idea è fare le cose bene, fare le cose in un certo modo, con un elemento straordinario che è il legno. Oggetti molto legati alla quotidianità e alle persone e a quello che quotidianamente toccano, vivono, utilizzano: il tavolo, la scrivania, il letto. Perché avete deciso di ritornare alle origini? Ma probabilmente perché il momento storico è talmente esasperato che è un passo necessario, dobbiamo fermarci, fare un passo indietro, capire che cosa è successo, perché siamo arrivati qui. E secondo me questo viene fatto unicamente riportando da zero le lancette di questo strano orologio impazzito. Noi abbiamo passeggiato nelle foreste di larici del Trentino, abbiamo toccato con mano gli alberi, abbiamo acquistato una partita di alberi, li abbiamo fatti tagliare, li abbiamo fatti lavorare, li abbiamo fatti preparare per questa esperienza, per questa produzione. E noi abbiamo preso come filosofia il chilometro zero. Così come è successo nel food, io credo che debba succedere in molti altri settori produttivi questo processo. Chi è che vi ha aiutato o vi siete aiutati? Noi abbiamo messo chiaramente energia e soldi in quest'idea. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio molto particolare, devo essere sincero, che è il Trentino, un territorio molto molto organizzato, molto anche complice nel senso positivo della parola, dove le istituzioni, e l'ente Trentino Sviluppo, dove la provincia di Trento, dove l'associazione degli artigiani si è messa a disposizione con delle risorse, con la volontà di fare rete, con la volontà di far incontrare chi ha 100 anni di esperienza familiare filiera di artigianato e quindi ha un know-how straordinario sulla produzione di mobile, con noi che invece vogliamo guardare avanti, vogliamo guardare i mercati, guardiamo all'estero, guardiamo al mondo. E in questo devo dire che il progetto è risultato davvero essere un progetto territoriale. Questo modello di business che vi ha portato anche alle esposizioni, qual è? A chi vendete? Come avete fatto a individuare un mercato? Ma noi abbiamo un obiettivo, cioè far innamorare del nostro progetto tutti quei soggetti che possiedono un punto vendita particolare. Uso il termine particolare, intendo dire legato molto alla cura dei dettagli, alla qualità, al design, all'eccellenza. Noi a quel tipo di pubblico ci rivolgiamo. Non abbiamo grossissimi numeri, non abbiamo un obiettivo di numeri, ma abbiamo un obiettivo di qualità. La provincia autonoma di Trento, che lei mi citava, spende, diciamo, la spesa pro capite destinata alla ricerca è più del doppio della media nazionale e in linea con i paesi più avanzati nel mondo. Questo è quello che aiuta, cioè creare anche l'industria come bene comune. Ma certo che aiuta. Io penso che lo spirito trentino abbia una caratteristica principale, cioè guardare al bene comune prima che a un bene individuale. Anche noi, pur producendo un qualcosa che non necessita specificamente di ricerca, comunque ci siamo relazionati con la Fondazione Bruno Kessler, comunque con istituti che si occupano di ricerca nel campo della tecnologia, comunque nel campo dell'industria, della produttività. Ecco, ricerca e innovazione, ma anche una sfida global, come ovviamente è nella migliore tradizione. Questi sono parole, ma in realtà voi le avete messe in pratica. Ce la mettiamo tutta per farlo. E ora siate imprenditori geniali ma responsabili, conviene. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccole imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.